Allora, intanto buongiorno, grazie della disponibilità a Rossella Selmini che abbiamo contattato per poter, insomma, fare una chiacchierata con noi intorno a alcuni temi che riguardano la Catalogna e che innanzitutto salutiamo. Grazie mille di aver accolto questo nostro invito. Grazie a voi, è un piacere poter parlare con voi di questi fatti. Allora, Rossella, non abbiamo anticipato niente, quindi ti chiederei di darci una bella presentazione del lavoro che fai, che svolgi in questo momento comunque negli Stati Uniti, perché sei, credo, ospite di una università a Minneapolis, e se ci vuoi raccontare un po' di cosa prevalentemente ti occupi, questo ci aiuta, insomma, a chiarire un po' il quadro introduttivo. Sì, certo, io insegno sociologia al Dipartimento di Sociologia dell'Università del Minnesota da 6 anni, insegno sociologia della devianza, sociologia del controllo, perché i temi di cui io mi occupo sono criminalità, processi di criminalizzazione, violenza e anche violenza politica, eccetera. Quindi questo è il mio campo di intervento ed è quello di cui mi sono sempre occupata. Da qui anche appunto un certo interesse per le vicende catalane, per quanto io non abbia mai lavorato sui temi né dell'autodeterminazione né dei nazionalismi, eccetera. Naturalmente ho un interesse anche di tipo scientifico rispetto a quanto sta succedendo in Spagna e in Catalogna per quello che riguarda i processi di criminalizzazione. Ma per il resto, al di là di questo interesse professionale, io ho molti legami con quel paese, ho lavorato a progetti di ricerca congiunti con la stessa Generalitat de Catalunya, con università catalane, ho molti amici, ho vissuto a intermittenza in quel paese, quindi ci sono una serie di ragioni, ecco, per cui non posso dirmi un'esperta di Catalogna, però conosco la realtà piuttosto bene, la seguo molto attivamente, c'è un gruppo di italiani ora molto attivo, che comprende ricercatori, ma non solo, comuni cittadini, perché anch'io poi sono una cittadina europea interessata a quello che succede in Europa, e che è iniziato con un gruppo Twitter dei Foreign Friends of Catalunya e adesso si sta strutturando in un'associazione che coinvolge parecchi cittadini in vari paesi europei. E quindi lavoriamo in modi molto diversi, facendo traduzioni, facendo soprattutto controinformazione, favorendo gli scambi, scambi di giornalisti, scambi di ricercatori anche, questo è un altro aspetto importante, stiamo lanciando un progetto proprio per lo scambio di ricercatori stranieri in modo da poterli ospitare in Catalogna e aiutare anche logisticamente le loro ricerche o i loro contatti accademici, ecco, tutta una serie di attività che mi portano a essere, a lavorare, insomma, buona parte del mio tempo, a dedicare buona parte del mio tempo a questi temi. Noi in realtà sappiamo di te in modo anche casuale, per esempio questo progetto al quale hai appena accennato non lo conoscevamo direttamente, no? Mentre invece interessandoci appunto di alcune operazioni anche mediatiche che si sono attivate di solidarietà, che si sono attivate nel recente passato, ci siamo imbattuti in una serie di appelli internazionali da parte, insomma, di ricercatori, docenti, intellettuali che hanno comunque provato a esprimere un'opinione molto critica nei confronti di quello che stava avvenendo comunque in Catalogna, no? E in particolare appunto un appello che chiedeva la liberazione dei detenuti, no? Nelle carceri catalane all'indomani, insomma, dell'applicazione del 155. Due cose: quanto ritieni che questo tipo di appelli siano, non dico efficaci, ma sottovalutati forse, perché ci è sembrato che la presenza di docenti italiani sia relativamente bassa, no? Quindi vuol dire che forse questo tipo di appelli non riescono a raccogliere la stessa risposta, in tutti i territori. Forse c'è una sensibilità diversa, un'attenzione diversa e una percezione diversa del significato che possono avere. E poi più personalmente, tu chiaramente conoscevi la situazione più direttamente, ma come ti sei mossa nei confronti di questo appello? Lo hai promosso tu direttamente? Ti hanno contattata? Come si è attivata, diciamo, la tua partecipazione? Sì, dunque, questo è uno dei probabilmente 10-12 appelli che io ho firmato nell'ultimo anno, molti dei quali erano anche indirizzati a ricercatori, accademici, eccetera. Questo in particolare, appunto, non ricordo esattamente, ah sì, allora ricordo invece collega, quindi un'altra insegnante di un'università catalana, che me l'ha segnalato, ma avevo visto anche probabilmente delle notizie su Twitter, che è un canale di informazione molto più utilizzato dai catalani, anche molto di più di quanto si faccia in Italia. In Italia vedo che l'informazione fuori dai giornali gira molto nei social media, gira molto su Facebook soprattutto, su gruppi WhatsApp. Mentre Twitter è un canale molto utilizzato dai catalani, quindi parecchie di queste petizioni sono girate su Twitter, ma nella maggior parte dei casi io ho ricevuto delle informazioni dirette da colleghi che mi segnalavano se ero interessata, e a mia volta avendo io parecchi contatti in Europa per la mia storia professionale divisa tra l'Europa e gli Stati Uniti, parecchi contatti qua nel mio settore disciplinare in particolare, e molti contatti negli Stati Uniti, a mia volta mi facevo promotrice di rilanciare queste petizioni. Io sul loro valore, naturalmente, è chiaro che non sono quelle che sposteranno le cose, ma al tempo stesso mi accorgo, anche confrontando, ed è vero che gli italiani sono pochi, tema a cui dedicherei una riflessione specifica dopo. Però è anche vero che nel tempo questo bombardamento, no, di notizie che girano, il numero anche mi sembra ogni volta più significativo di persone che aderiscono a questi appelli. Quindi credo che senza avere delle aspettative enormi, però sia comunque una cosa che vada fatta, anche perché credo che il sostegno, del ceto intellettuale, lo dico in modo un po' generico se vuoi, però sia importante, sia veramente significativo per i temi catalani, perché sono temi anche molto complessi, molto articolati e c'è stata una disattenzione veramente troppo forte. Quindi lo ritengo importante, ma lo ritengo importante anche in termini per la mia disciplina, ecco, diciamo chi fa sociologia o anche criminologia. Negli Stati Uniti c'è una tendenza molto forte a essere coinvolti come docenti nella vita sociale e culturale del paese, quella che si chiama public sociology o public criminology, eccetera. E questo ci porta un po' anche alla reazione, ad esempio, che tu trovi negli Stati Uniti quando chiedi a un collega di firmare una petizione. È in genere entusiasta e immediata, naturalmente, dopo aver valutato i temi e i contenuti. Ma se si ha a che fare con violazioni dei diritti, con rispetto della libertà d'espressione, dei diritti civili e politici, in America trovi immediatamente curiosità e attenzione. C'è un atteggiamento intellettuale molto diverso, di apertura molto significativa. Non a caso, nella petizione che tu stai citando, mi sembra che gli americani siano all'incirca 18-20 che hanno firmato Sono molti. rispetto appunto ai pochissimi italiani di cui si diceva prima. Quindi bisogna continuare a farne, non so che cosa produrranno, ma comunque curiosa che mi è capitata rispetto a questa situazione. Ne ho firmate tante nella mia vita, oltre a quelle per la Catalogna, per diritti umani in genere, eccetera. Per la prima volta nella mia vita ho ricevuto un'email da un giurista spagnolo che mi invitava molto gentilmente a riflettere sul fatto che le persone per le quali io stavo esprimendo la mia preoccupazione erano persone che avevano violato la legge, e seguiva un lungo elenco degli articoli potenzialmente violati del codice penale, quindi una disquisizione giuridica. E come me l'hanno ricevuta tutti i 400, credo, firmatari, ecco, di questa. di questa petizione. È un fatto curioso, del tutto legittimo, non dico che non si possa fare, però non mi era mai capitato nella mia vita. Questo dà il segno che evidentemente c'è molta preoccupazione proprio per il coinvolgimento degli accademici, degli intellettuali, per il crearsi di un'opinione pubblica, lo dico con un brutto termine, però credo che mi capirete, di elite su questo tema. Questo è un argomento interessante perché ci permette insomma di avvicinarci al discorso che volevo proporti. Abbiamo l'opportunità insomma con te che stai appunto negli Stati Uniti di ragionare sull'accoglienza, no, che questo tema ha ricevuto, di che tipo è stata. È chiaro che l'Europa è comunque un continente lontano e a maggior ragione un conflitto che può riguardare un piccolo territorio all'interno di un paese come la Spagna, eppure sulle pagine dei giornali, nelle televisioni e all'interno al limite anche dell'Accademia, che tipo di riflessioni, approfondimenti ci sono stati nell'arco di quest'ultimo, diciamo, anno abbondante di fatti? Come dicevo prima, l'atteggiamento immediato in genere degli americani, poi naturalmente io parlo di un settore della società americana, che naturalmente è molto composita, però sicuramente c'è un tratto culturale abbastanza comune che dicevo è quello della curiosità intellettuale, no? Del voler capire che cosa succede, quindi la reazione immediata, dicevo, è di grandissima apertura e curiosità. Nella mia università ad aprile di quest'anno abbiamo organizzato un seminario su questo tema, è stata la prima volta che si è fatto, organizzato dall'Istituto per gli Studi Spagnoli, a cui hanno partecipato due catalani invitati dalla Catalogna e altri docenti americani o catalano-americani. Sono venuti gli studenti, è venuta la comunità catalana di Minneapolis, eccetera. Quindi in Italia non si era fatto ancora praticamente nulla in quel periodo, invece lì ci si era già attivati. Per il resto è chiaro che, come dicevi tu, la Catalogna è un piccolo paese lontano, sperduto, e gli Stati Uniti hanno dei bei guai al loro interno adesso, come sappiamo. Quindi non posso dire che la Catalogna assolutamente non è un tema che compare nella discussione pubblica, nel dibattito pubblico. È anche vero che il giornale più conosciuto anche americano, più conosciuto anche all'estero, il New York Times, pubblica regolarmente informazioni con questo atteggiamento obiettivo che è tipico di quel giornale, però pubblica informazioni in maniera continuativa, cosa che non sempre i giornali mainstream europei fanno, diciamo, non solo quando c'è la violenza, quando esplode qualcosa, quando si può puntare sull'elemento sensazionalistico, mentre invece il New York Times lo fa con regolarità, dando anche informazioni sull'evoluzione della situazione politica, anche quando non c'è nessuna manifestazione di sediziosi in corso, diciamo così. Quindi la stampa ufficiale è sicuramente più attenta, la società nel suo complesso e la politica sono naturalmente non hanno mai preso posizione in modo chiaro. Noi abbiamo sollecitato più volte gli stessi Sanders e il suo movimento, ecco, a esprimersi, in particolare quando è iniziato lo sciopero della fame di 4 dei prigionieri politici, visto che Sanders ha sempre mostrato molta attenzione ai suoi tempi, diciamo così, sulle questioni irlandesi, dei prigionieri politici irlandesi, però non c'è, ecco, diciamo, ancora l'attenzione di questo. Però sono convinta che se qualcuno ne parlasse a un politico americano della sinistra americana, ci sarebbe sicuramente curiosità e attenzione. Tornando all'appello, ma senza slegarci da questo in realtà argomento, volevo invece invitarti a fare una piccola riflessione sull'accoglienza che questo tema ha ricevuto in Italia e complessivamente nel circuito accademico italiano, no? È significativo che effettivamente le persone che lo hanno firmato in Italia siano veramente poche. Che spiegazione ti dai, o comunque che tipo di riflessione ti porta a fare questo fatto? Ma faccio una riflessione che è più generale rispetto alla situazione italiana, poi più nello specifico rispetto appunto alla al mondo dell'università, eccetera. A me stupisce veramente molto, anche se cerco di interpretarlo, di capire meglio questa disattenzione, se non ostilità, verso la mobilitazione catalana in generale. È come se, nell'opinione pubblica prevalente italiana, il fatto di voler essere anche indipendenti da uno Stato nazionale che è riconosciuto come del tutto legittimo, eccetera, comporti una sorta di impurità, no, di quel movimento, qualcosa di negativo che impedisce, quasi come se fosse un blocco mentale o psicologico, di vedere gli aspetti gravissimi di criminalizzazione, di repressione, che tra l'altro non riguardano solo il ceto politico catalano, ma noi sappiamo, anche se la stampa italiana non ne dà tanto conto, lo fate voi, lo fanno pochi altri, noi sappiamo che c'è un'opera di repressione molto diffusa nella società civile, che ci sono centinaia e centinaia di persone inquisite in modi diversi per la loro espressione del dissenso politico, che oltre ai 9 in prigione ci sono altri 9 funzionari, dirigenti, eccetera. Noi sappiamo che ci sono rappers in esilio, no, per i testi delle loro canzoni. Ecco, che tutto questo in Italia non venga colto, o anche quando viene colto, risulti comunque meno importante rispetto al gravissimo peccato che in questo movimento della Catalogna ci sia una fortissima componente indipendentista, tra l'altro in buona parte di stampo progressista. Ecco, che tutto questo non venga colto è veramente molto molto grave, e penso che dipenda dalla disinformazione. I media hanno fatto un'opera, credo, veramente pessima nell'informare correttamente sia prima del referendum che dopo. Ci sono tutte le costruzioni, le narrative della Spagna come un paese dinamico che stava evolvendo verso il futuro. Víctor Seri ha scritto un pezzo bellissimo su questo, sull'appartamento spagnolo, no? Sul Zapatero, su questi spagnoli che ci superavano nella corsa verso il progresso, la modernità, i diritti civili, eccetera. E c'è una gran difficoltà di parte dell'opinione pubblica italiana a rendersi conto che non era così vero. E lo stiamo scoprendo adesso, la questione catalana ci sta aiutando a scoprire questo. E il nostro problema è cercare di diffonderlo sempre di più. Io dicevo soprattutto appunto agli intellettuali, agli accademici, ma in generale a ogni cittadino che abbia una coscienza democratica, che comunque questo tema della repressione è fondamentale, non può essere cancellato da un desiderio di autodeterminazione che tra l'altro è del tutto legittimo, riconosciuto anche dalla Costituzione spagnola. Non può diventare quella una ragione per giustificare un'ondata repressiva che non ha uguali nell'Europa contemporanea, almeno nell'Europa occidentale. Sì, diciamo che adesso ultimamente i fatti che ci portano insomma comunque ad avere un occhio e uno sguardo attento e sulla Francia ci dicono che anche lì le reazioni al movimento dei Gilets Jaunes è sicuramente indicativo di una grande difficoltà in questo momento delle democrazie europee. Di essere conseguenti con i diritti in qualche modo che sono stati affermati almeno formalmente nei decenni passati, e quindi di effettivamente essere in grado di garantire quel dissenso che apparentemente no, figura comunque in tutte le costituzioni come un diritto inalienabile delle persone. Ogni qualvolta questo diritto poi viene esercitato in maniera anche aspra, no? Ma magari dalla cittadinanza e negli ultimi anni più duramente pare, no, che la reazione poi effettivamente si scateni. Io vorrei chiederti anche per concludere se diciamo, che opinione hai tu anche in virtù delle cose che stavi dicendo prima, no, rispetto a quello che almeno da noi un po' sembra essere diventata una polarizzazione molto difficile nella quale tutti siamo un po' stretti tra europeisti e sovranisti, no? È come se all'interno dell'Europa ormai si sia attivata questa divaricazione per cui immediatamente se tu parli di territori, parli di rapporto con la società civile, parli di diciamo dell'Unione Europea in termini critica, sei automaticamente un sovranista, no? D'altronde è altrettanto vero che non si capisce bene che cosa significhi essere europeista. Adesso anche la morte di questo ragazzo, di questo giornalista, no, a Strasburgo, ha di nuovo riportato in auge una visione che io credo non fa neanche giustizia a lui, no, del cosa si possa, di come si possa sentire una persona quando pensa all'Europa e quando si sente al limite anche di identificarsi con un certo tipo di progetto. Non credo che neanche lui si identificasse con questa Europa. Ma comunque, no, questa polarizzazione è chiaro che probabilmente e molto spesso inibisce la capacità di capire quello che avviene in Catalogna, forse anche in Francia, e altrettanto al limite da noi, no? Quindi, come lo vedi tu, da cittadina che ora abita in America, ma che è anche europea, quindi. Certo, sì, sono assolutamente d'accordo su questo tema della polarizzazione, tra l'altro appunto su due definizioni che sono poi delle scatole vuote, che ognuno riempie con i contenitori che crede. Se noi pensiamo ai catalani, per esempio, e li definiamo come sovranisti, che succede sempre, spessissimo, proprio perché appunto rivendicano apparentemente, cioè rivendicano un'identità nazionale, un'appartenenza nazionale, eccetera. Sappiamo anche benissimo, ci sono dei dati di sondaggi accurati fatti in quel paese, che gli elettori dei partiti indipendentisti sono partiti non indipendentisti come Ciudadanos, naturalmente il Partito Popolare. Sono quelli che meno esprimono attitudini pro-europee. Eppure in Italia Ciudadanos, per esempio, è presentato come un partito simbolo di questa Europa da tenere in piedi A tutti i costi. comunque, sempre e a tutti i costi. Ecco, quindi ognuno ci mette un po' dentro quello che vuole, definisce europeisti questi quando necessario e questi altri sovranisti in un'altra. A me sembra di osservare questo nel dibattito italiano, quindi bisognerebbe fare una grandissima operazione di pulizia sulle definizioni, sui termini che utilizziamo, su che cosa veramente comprendono e poi guardare alle pratiche vere, alle pratiche politiche, per esempio. O appunto a quello che sono realmente certi partiti che si definiscono europeisti. E soprattutto bisognerebbe guardare al progetto di società che poi questi pezzi di società o questi partiti stanno esprimendo. Perché io da persona cresciuta con un'idea dell'Europa, con un mito dell'Europa, io ho fatto il dottorato all'università europea di Fiesole, nei lontani tra gli anni 80 e 90, quindi parliamo di molti anni fa. E lì è stata la prima esperienza di condivisione, questa sensazione di non essere italiana, ma di essere parte di un'Europa, che oggi vedo il mio figlio che studia ad Amsterdam, nei suoi amici, cioè c'è una sensazione di appartenere a un'Europa, ma se guardo il progetto politico di questa Europa non mi ci riconosco più, naturalmente. E quindi noi credo che sia importante riclassificare questi temi dell'europeismo e del sovranismo anche in relazione a in quale società vuoi vivere e che cosa ti aspetti. Vuoi una società più giusta dal punto di vista sociale? Allora questa Europa non la sta esprimendo. Ecco, dobbiamo ridefinire un po' tutto quanto. Nel confronto con l'America credo che sia abbastanza azzardato perché ci sono alcune cose forse in comune, ma soprattutto credo che ci sia semplicemente un fenomeno di imitazione di slogan da parte di alcuni partiti politici della destra estrema in Italia. D'altronde stesso ex consulente di Trump è venuto in Europa a fare propaganda per una certa idea di sovranità nazionale, no? Ma lo stesso Steve Bannon è stato cacciato da Trump, insomma, quindi è una situazione molto, molto particolare quella dell'Europa di Trump, che è difficile, secondo me, comparare con la situazione europea oggi, se non per il fatto che alcuni partiti, anche in Italia, lo sappiamo benissimo, utilizzano strumentalmente degli slogan analoghi, gli italiani prima invece che l'America prima, ma è sempre la stessa idea, di nemici sicuramente interni o esterni, che racchiude quest'idea appunto degli italiani prima o dell'Europa prima, ma per il resto ci sono anche moltissime, moltissime differenze, che hanno a che fare anche con una società americana che è molto, per quanto per certi aspetti ripiegata, è comunque più reattiva e più attenta ai temi dei diritti, secondo me, di quanto lo sia paradossalmente l'Europa in questo periodo. Quindi io credo che ci sia più capacità di reazione negli Stati Uniti contro questi progetti di quanto ne veda purtroppo oggi in Europa, con questo terrore dei confini, sia esterni che interni, che devono restare congelati, ogni cosa è vista come un attacco. Solo che su questa paura e su questo mantenere, no, una situazione, uno status quo che per motivi diversi non sta funzionando, non credo che possa reggere a lungo senza una riflessione seria. Rossella, grazie mille, abbiamo parlato un po' di più di quanto immaginassi, spero insomma non ti sia dispiaciuto conversare con noi, con Radio Onda Rossa, in questo programma e ti ringraziamo molto della disponibilità e speriamo di risentirci presto. Grazie a voi e buon lavoro. Ciao.